Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Ero straordinariamente commosso. La sua gioventù, la sua ignoranza, la sua bellezza piena di grazia che aveva il semplice incanto e il vigore delicato di un fiore selvatico, la sua patetica perorazione, il suo essere indifesa, mi toccavano quasi tanto intensamente quanto la sua naturale e irragionevole paura. Temeva l'ignoto come tutti e la sua ignoranza lo ingrandiva a dismisura. Io ero il rappresentante di questo ignoto, il simbolo di me stesso, di voi, amici miei, di tutto il mondo che non si curava di Jim e non sentiva neppure il minimo bisogno di lui. Sarei stato pronto a farmi carico dell'indifferenza di questa affollata terra se non avessi riflettuto che anche Jim apparteneva a questo misterioso ignoto, fonte di tanti suoi timori, e che se forse potevo parlare a nome di questo mondo misterioso, non potevo farlo per lui, per Jim. Questo mi fece esitare. Le mie labbra emisero un mormorio di disperato dolore. Cominciai a ribattere che io, comunque, non ero venuto con l'intenzione di portarlo via. Perché ero venuto allora? Dopo un lieve movimento, ella rimase immobile come una statua di marmo nella notte. Cercai di spiegarle brevemente. Amicizie, affari, se mai avessi avuto un desiderio, era di vederlo per sempre lì. «Se ne vanno tutti», mormorò. Quell'alito di triste saggezza, soffiato da una tomba che la sua pietà ricopriva di fiori, parve trascorrere come un lieve sospiro. Nulla, le dissi, poteva separare Jim da lei. Di ciò ero fermamente convinto, come lo sono tuttora. Era l'unica conclusione che si potesse trarre dai fatti, e ciò mi fu confermato da quello che ella, subito dopo, mi sussurrò nel tono in cui si parla fra sé. «Me lo ha giurato?» «Glielo ha chiesto lei?» le domandai. Fece un passo verso di me. No, mai. Ella gli aveva solo chiesto di fuggire. Fu quella notte sulla riva del fiume, dopo che Jim aveva ucciso quell'uomo, dopo aver gettato nell'acqua la torcia perché lui la stava guardando in quel modo. C'era troppa luce e il pericolo era cessato per un po'. Allora le disse che non l'avrebbe mai abbandonata a Cornelius. Ella aveva insistito. Voleva che se ne andasse e gli disse che non poteva, che era impossibile. Lo disse tremando. Lei lo aveva sentito tremare. Cadde ai piedi di lui, me lo disse ella stessa, lì in riva al fiume, sotto la luce discreta delle stelle che permettevano di scorgere solo grandi masse di ombre silenziose, indefiniti spazi aperti, e che con il loro fievole tremolio su quella distesa d'acqua la facevano apparire grande come il mare. Egli l'aveva sollevata. La sollevò ed ella non oppose più resistenza, non poteva. Due braccia forti, una voce tenera, una spalla robusta su cui appoggiare la sua povera testolina. Il bisogno, un bisogno immenso di tutto questo per il cuore dolente, per la mente smarrita. I fermenti della gioventù, la necessità del momento. Che cosa possiamo pretendere? Noi comprendiamo, a meno di non comprendere proprio nulla della vita. E così ella si lasciò sollevare e tenere stretta. Lei capisce, per Giove, questa è una cosa seria, non una sciocchezza senza importanza. Bisbigliò rapidamente Jim, con viso turbato e preoccupato sulla soglia di casa. Non ho grande esperienza di sciocchezze senza importanza, ma non c'era traccia di allegria in quella loro romantica vicenda. Si incontrarono all'ombra della catastrofe di una vita, come un cavaliere e una fanciulla che si scambiano voti d'amore fra rovine stregate. Le parole mi tornarono prestissimo, perché appartengono anch'esse a quel confortante mondo di luce e d'ordine che è il nostro rifugio. Le avevo formulate nella mia mente, pronto ad usarle, quando ella mi sussurrò piano. Mi giurò che non mi avrebbe mai lasciato quando eravamo là soli. Me lo giurò. E com'è possibile che lei, non gli creda? Domandai scandalizzato in tono di sincero rimprovero. Perché non gli credeva? Da dove le veniva questa brama di incertezza, questo abbarbicarsi alla paura, come se incertezza e paura fossero la difesa del suo amore? Era mostruoso. Quell'onesto sentimento le sarebbe dovuto servire per costruirsi un asilo sicuro, ma non sapeva come fare. Forse le mancava l'esperienza. Thank you. e improvvisamente risentì il suo tranquillo bisbiglio. Altri uomini hanno fatto lo stesso giuramento. Era come se stesse esprimendo ad alta voce pensieri di tristezza e di apprensione. E aggiunse con tono, se possibile, ancora più basso: «Mio padre lo ha fatto». Si fermò per il tempo di un impercettibile respiro. «E anche il padre di mia madre». Erano queste le cose che sapeva. Risposi subito: «Ah, ma lui non è così». Mi parve che non intendesse contestarlo, ma dopo una pausa mi tornò alle orecchie quello strano e uniforme bisbiglio che aleggiava irreale nell'aria. «Perché è diverso, è migliore, è...» «Sulla mia parola d'onore», esclamai interrompendola, «credo di sì». «È più sincero», mormorò lei. «Sì», dissi. «Più sincero di chiunque altro», ripeté la ragazza scandendo le parole. «A nessuno qui», dissi, «verrebbe in mente di dubitare della sua parola. Nessuno oserebbe tranne lei». Mi parve di vedere che a queste parole si muovesse. «Ed è più coraggioso di chiunque altro», proseguì mutando tono. «La paura non lo allontanerà mai da lei», risposi un po' nervosamente. Fui colpito dal silenzio di lei. «Che cosa le ha detto? Le ha detto qualcosa?» Nessuna risposta. «Che cosa le ha detto?» insistetti. «Pensa che io posso dirglielo. Come posso sapere? Come posso capire?» esclamò ella infine. Ci fu un lieve movimento. Credo che si stesse torcendo le mani. «C'è qualcosa che lui non potrà mai dimenticare». «Tanto meglio per lei», dissi mestamente. «Che cos'è? Che cos'è?» mise una forza straordinaria nel suo tono supplichevole. «Dice di aver avuto paura. Come posso crederlo? Sarei pazza se lo facessi. Avete tutti voi il ricordo di qualcosa, e tutti voi a questa cosa tornate. Che cos'è? Me lo dica. Qual è questa cosa? È viva o è morta? Io la odio, è crudele, ha una faccia e una voce, questa disgrazia. È una cosa che lui può vedere, può sentire, magari nel sonno, quando non può vedere me, e così alzarsi e andarsene. Ah, non lo perdonerò mai. Mia madre ha perdonato, ma io mai. Ci sarà un segno, una chiamata». La sua immobilità mi fece capire che ella rimaneva in attesa, ed era mio compito parlare in favore di quel mio fratello arrivato lì dal mondo delle ombre in memoria. La mia responsabilità e la sua angoscia mi turbavano profondamente. Avrei dato qualunque cosa per poter consolare quell'anima fragile che si tormentava nella sua ineluttabile ignoranza come un uccellino che svolazza fra le sbarre crudeli di una gabbia. Nulla di più facile e nulla di più difficile che dire: non avere paura. Ma come vincere la paura? Come trafiggere al cuore uno spettro? Come tagliargli la testa spettrale? Come afferrarlo alla spettrale gola? Cominciai il mio esorcismo con il cuore pesante e una specie di sorda rabbia. Non c'era nulla, dissi parlando in tono basso e chiaro. Non ci poteva essere nulla in quel mondo che lei immaginava così ansioso di sottrarle la sua felicità. Non c'era nulla, né fra i vivi né fra i morti, nessun volto, nessuna voce, nessun potere che potesse strapparle Jim. Respirai forte ed ella bisbigliò. «Me l'ha detto anche lui». «Le ha detto la verità», dissi. «Nulla», sospirò lei e si volse di colpo verso di me parlando con voce appena percettibile. «Perché è venuto da laggiù? Lui parla tanto di lei. Lei mi fa paura, vuole riprenderselo». Una sorta di trattenuta violenza si era insinuata nei nostri svelti borbottii. «Qui non tornerò più», dissi con amarezza. «E non voglio riprendermelo. Non lo vuole nessuno». «Nessuno», ripeté lei dubbiosa. «Nessuno», ribadì, sentendomi assalire da una strana eccitazione. «Lei lo considera forte, saggio, grande, coraggioso. Perché non dovrebbe essere anche sincero? Domani me ne andrò e tutto finirà. Nessuna voce di laggiù verrà più a turbarla. Questo mondo che lei non conosce è troppo grande per sentire la sua mancanza. Capisce? Troppo grande. Lei tiene fra le mani il suo cuore. Deve crederlo, deve saperlo». «Sì, lo so», disse con un sospiro, dura e immobile, come una statua parlante. Tacque. Su Patusan regnava un profondo silenzio e il flebile suono di una pagaia che picchiava sul fianco di una canoa in qualche punto del fiume sembrava moltiplicarlo all'infinito. «Perché?» mormorò. Sentì la stessa rabbia che si prova durante una lotta violenta. Lo spettro stava cercando di sottrarsi alla mia presa. «Perché?» ripeté più forte. «Me lo dica». E poiché tacevo confuso, ella batté il piede per terra come una bimba capricciosa. Perché? Parli. Vuole saperlo? Le chiese infuriato. Sì, gridò. Perché un uomo che non vale abbastanza? Le dissi brutalmente. Questo è proprio ciò che ha detto lui. Lei mente. Le ultime due parole me le urlò nel dialetto locale. Mi ascolti. La scongiurai. Trattenendo il respiro per il tremito, mi spinse via il braccio. Nessuno vale abbastanza. Cominciai parlando con grande serietà. Sentii che il suo ansimante respiro diventava sempre più affannoso. Chinai la testa. A che serviva? Si stavano avvicinando dei passi. Scivolai via senza aggiungere un'altra parola. Niente, disse Marlo trasalendo leggermente. Lui le aveva raccontato il fatto, tutto qui. E lei non gli aveva creduto, nient'altro. Quanto a me non sapevo se fosse giusto, opportuno, corretto, esserne felice o dispiaciuto. Da parte mia non sapevo che cosa credere. Ancora oggi non lo so e probabilmente non lo saprò mai. E lui, povero diavolo, cosa credeva? Si dice che la verità viene sempre a galla. Magna est veritas. Sì. Quando ne ha la possibilità. C'è una legge, senza dubbio, e c'è una legge che regola anche la fortuna degli individui nel gioco dei dadi. Non è la giustizia che è al servizio dell'uomo, ma il caso, la fatalità, la sorte, l'alleata del tempo paziente che garantisce un equilibrio attento e scrupoloso. Entrambi avevamo detto la stessa cosa. Dicevamo la verità entrambi, o uno solo dei due, o nessuno dei due. Ero solo riuscito ad aggiungere all'angoscia di lei il sospetto di una collusione misteriosa, di un'inspiegabile ed incomprensibile congiura per tenerla per sempre all'oscuro. E questa si era realizzata in modo facile, naturale, inevitabile, per opera di lui, per opera di lei. Era come avere avuto la rivelazione di come funziona l'implacabile destino di cui siamo le vittime e gli strumenti. Era spaventoso pensare alla ragazza che avevo lasciato lì immobile, e i passi di Jim avevano un suono sinistro quando mi passò davanti senza vedermi, sbattendo i suoi pesanti stivali. «Cosa? Niente luci!» dissi con voce forte e sorpresa. «Che cosa fate lì al buio, voi due?» Il momento dopo la scorse, credo. «Ciao, ragazza!» esclamò con voce gioiosa. «Ciao, ragazzo!» rispose subito lei con una forza sorprendente. «Dov'è finito Marlo?» chiese Jim, e subito dopo. «È andato al fiume, vero? Strano che non l'abbia incontrato. È lì, Marlo?» Non risposi. Non avevo intenzione di rientrare, almeno non ancora. Non potevo proprio. Mentre mi chiamava mi stavo allontanando dopo aver attraversato un cancelletto che portava un tratto di terreno appena disboscato. No, ancora non me la sentivo di affrontarli. Camminai velocemente con la testa bassa lungo un tratturo. Fui interrotto da Cornelius. Sbucò come un insetto dalla lunga erba che era cresciuta in una depressione del suolo. Credo che la sua fatiscente casa fosse nelle vicinanze, anche se non la vidi mai, non essendomi mai inoltrato abbastanza in quella direzione. Corse verso di me sul sentiero. I suoi piedi, ricoperti da luride scarpe bianche, risaltavano sulla terra scura. Si erse in tutta la persona e cominciò a piagnucolare e a strisciare sotto il suo alto cappello a cilindro. La sua carcassa rinsecchita spariva quasi in un abito nero di lana pettinata. Era il suo vestito della festa e delle grandi occasioni, e mi ricordò che era la quarta domenica che passavo a Patusan. Non so se fosse per lo scoraggiamento seguito alla mia disfatta nella lotta con lo spettro della paura meno di un'ora prima, ma mi lasciai accostare da lui senza neppure un accenno di resistenza. Ero destinato a ricevere confidenze e a trovarmi di fronte a domande senza risposta. Era un compito duro. Ma il disprezzo irrazionale che l'aspetto dell'uomo provocava rese tutto più sopportabile. Non mi importava di lui, non mi importava di nulla da quando mi ero convinto che Jim, l'unica persona che mi stesse a cuore, era infine riuscito a dominare il proprio destino. Mi aveva detto di essere soddisfatto, quasi. Era più di quello che molti di noi osano ammettere. Neanche io, che ho il diritto di pensare di valere abbastanza, oso arrivare a tanto, e neppure voi, immagino. Marlo tacque, come in attesa di una risposta. Nessuno parlò. Benissimo, riprese. Che non lo sappia anima viva, dal momento che la verità ci può essere strappata solo da una piccola, spaventosa, crudele disgrazia, ma egli è uno di noi e poteva dire di essere soddisfatto. Quasi. Pensate un po', quasi soddisfatto. Lo si sarebbe potuto invidiare per quella sua sciagura. Quasi soddisfatto. Davanti a questo nulla più contava. Non contava chi sospettasse di lui, chi si fidasse di lui, chi l'amasse, chi l'odiasse. Tanto più che era Cornelius ad odiarlo. Era un uomo troppo insignificante per essere pericoloso, anche se quanto mai carico d'odio. Concludendo quasi ogni frase con l'appellativo «mio degno signore», mi aveva seguito piagnucolando dalla tomba della sua defunta moglie fino all'entrata nel recinto di Jim. Affermava di essere il più infelice degli uomini, di essere una vittima, di essere stato calpestato come un verme. Mi supplicava di guardarlo. Non volevo farlo. Ma scorgevo con la coda dell'occhio, senza girare la testa, la sua ombra che scivolava ossequiosa dietro la mia, mentre la luna, sospesa in cielo alla nostra destra, pareva bearsi di quello spettacolo. Cercò di spiegarmi, come vi ho detto, la sua parte negli eventi di quella notte memorabile. Doveva tutelare i propri interessi. Come poteva sapere chi avrebbe avuto la meglio? Io l'avrei salvato, mio degno signore. Lo avrei salvato per $80, mi ripeteva con voce melliflua, a un passo dietro di me. Si è salvato da solo, risposi. E l'ha perdonata. Udii una specie di risolino e mi voltai a guardarlo. Si mise subito in guardia, pronto a scappare. Perché ride? Gli chiesi fermandomi. Non si faccia trarre in inganno, mio degno signore, strillò agitandosi scompostamente, quasi stentasse a controllarsi. Lui salvarsi da solo, lui non sa niente, mio degno signore, niente di niente. Chi è lui? Che cosa vuole qui? Questo ladrone, che cosa vuole qui? Getta fumo negli occhi a tutti, getta fumo negli occhi anche a lei, mio degno signore, ma non a me. È solo uno sciocco, mio degno signore. Scoppiai in una risata sprezzante e, girati i tacchi, ripresi a camminare. Mi raggiunse di corsa e mi bisbigliò con voce decisa. Non è che un bambino, un bambino, un bambino. Dopo questo preambolo, accennò alla questione che gli stava a cuore, ma in un modo così tortuoso, enfatico e meschino che per parecchio tempo non riuscì a capire dove volesse andare a parare. Voleva che intercedessi per lui presso Jim. Alluse anche a una certa faccenda di denaro. Più volte gli sentì dire le parole «importo modesto, dono adeguato». Mi parve che pretendesse una contropartita per qualcosa e arrivò a dichiarare con un certo calore che non valeva la pena di continuare a vivere se si doveva essere derubati di tutto. Naturalmente non aprii bocca, ma neppure mi turai le orecchie. Il nocciolo della questione, che a poco mi divenne chiaro, stava in questo. Egli si considerava in diritto di esigere del denaro come compenso per la ragazza. L'aveva allevata lui e non era neppure figlia sua. Dolori e preoccupazioni, ormai vecchio, dono adeguato. Se il degno signore avesse potuto dire una parola, mi fermai a guardarlo con curiosità, e allora forse per la paura che io considerassi quella richiesta come un'estorsione, si affrettò a fare una concessione. In cambio di un dono adeguato che gli doveva essere dato subito, egli sarebbe stato disposto, dichiarò, a prendersi carico della ragazza, senza ulteriori oneri, quando si fosse verificato il momento del ritorno a casa del signore. Devi avere pensato che stessi valutando spassionatamente la sua proposta, perché la sua voce divenne dolce come il miele. Tutti i signori danno un compenso adeguato quando per loro viene il momento del ritorno a casa, cominciò in tono insinuante. Sbattei il cancelletto. In questo caso, signor Cornelius, dissi, quel momento non verrà mai. E impiegò qualche secondo a riprendersi dalla sorpresa. Che cosa? Disse con voce stridula. Insomma, proseguì dall'altra parte della siepe, non l'ha sentito anche lei? Lui non tornerà più a casa. Oh, questo è troppo! Urlò. Smise di chiamarmi mio degno signore. Per un po' rimase zitto, quindi cominciò a voce bassa e senza più traccia di umiltà. Non tornerà più. Lui viene qui, solo il diavolo sa da dove, viene qui, solo il diavolo sa perché, e si mette a calpestarmi, mi farà morire. Ah, si mette a calpestarmi. Si mise a pestare leggermente per terra con entrambi i piedi. Mi mette sotto così, nessuno sa perché, mi farà morire. Appoggiò la fronte alla siepe, e in quella posizione vomitò minacce e orribili bestemmie in portoghese, con deboli esclamazioni mescolate a pianti e gemiti penosi, accompagnati da un forte scuotimento delle spalle, come se fosse stato colto da un accesso mortale. Era una scena grottesca e nauseante, e mi allontanai in fretta. Tentò di urlarmi dietro qualcosa, qualche ingiuria nei confronti di Jim, credo, ma a voce non molto alta, eravamo troppo vicini alla casa. Tutto ciò che udii distintamente fu solo un bambino. Un bambino. Thank you.